e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buongiorno a voi e bentornati puntuale. Come ogni mattina, Cuore Denari entra nelle vostre case. Per qualcuno sarà la casa di una vita intera, per altri la casa dei sogni, magari trovata dopo un lungo cercare, per altri la casa che invece si vorrebbe cambiare, vendere per cercarne una nuova. Allora, come avrete immaginato, parliamo proprio di case, di mercato immobiliare nella prima parte della puntata di oggi. Allora, 800 24 00 24, chiamateci se ci ascoltate da casa, ma anche naturalmente dal lavoro o dalla vostra auto. Capiremo insieme come si sta muovendo questo mercato, quali sono le occasioni da cogliere e le scelte che potrebbero finalmente trovare il momento giusto per essere fatte. Nella seconda parte della trasmissione cambiamo decisamente tema, parliamo di pancreas con 12.500 nuove diagnosi ogni anno in Italia. Quello del pancreas è uno dei tumori che, a ragione, fa più paura. È particolarmente aggressivo, spesso viene diagnosticato in ritardo, quando è in uno stadio avanzato e o è inoperabile. È un tumore difficile che richiede esperienza e competenza, un'alta specializzazione per così dire nell'affrontare il problema. Ma attenzione, non tutti i centri che eseguono gli interventi sembrerebbero avere la sufficienza esperienza per farlo. L'allarme arriva da un'indagine appena pubblicata che ha messo sotto esame quasi 11.000 interventi chirurgici per cancro del pancreas. Per sapere di più, restate, vi daremo tutti i dettagli di questa indagine, ma se volete conoscere le attenzioni, le precauzioni da adottare nei confronti di questo organo, chiamate il nostro numero verde anche per conoscere i segnali, i sintomi, gli esami che fotografano il suo stato di salute. Intanto, dov'è il pancreas? Sapreste localizzarlo e descrivere la sua funzione? Io vi aspetto. Torna a salire, anche se lentamente, la vitalità del mercato immobiliare italiano, una ripresa che viene evidenziata da più di un osservatorio, un dato che potrà influire sulle scelte di tanti italiani che stanno aspettando il momento giusto per comprare o per vendere una casa. Ne parliamo questa mattina con Paola Dezza del Sole 24 Ore, che è qui in studio con noi. Ciao Paola, sono proprio contenta. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, intanto facciamo una convocazione, 800 24 00 24. Raccontateci qual è il passo che aspettate da tempo di compiere in tema di casa e che avete sempre rimandato perché non era il momento buono. Comprare la casa dei vostri sogni? Vendere quella in cui abitate per cercarne un'altra, più grande, più comodo, in un'altra zona? Comprare una seconda casa, magari in una località di villeggiatura? O ancora, chissà, l'acquisto di una casa come investimento? Cosa state aspettando? Quali sono i vostri dubbi, le vostre incertezze? Che cosa vi trattiene? 349-238-6666 per i vostri SMS, ma anche per WhatsApp. Paola, partiamo dai dati. C'è l'osservatorio Nomisma. Ci sono i dati delle agenzie delle entrate arrivati da poco. Allora, che situazione fotografano? Come potremmo sintetizzarli? È il momento buono per chi? Per chi compra, per chi vende, per entrambi, chi fa più affari? Allora, diciamo che è un momento positivo per il mercato immobiliare. Non si parla di ripresa, perché questa parola fa un po' paura a tutti. Diciamo, diversi osservatori l'hanno citata nei semestri passati rimandandola, e quindi si parla di recupero. Di vecchie posizioni. Non si tornerà mai al picco di compravendite del 2006, però il mercato si è rimesso in moto, si sta stiracchiando. Esatto. È un lento risveglio. Esatto. E quindi abbiamo visto, e questi erano praticamente importanti, i dati delle agenzie delle entrate di fine anno, che hanno individuato il numero di compravendite annuali in 445.000 circa, quindi una buona crescita, e soprattutto un ultimo trimestre che ha confermato la crescita dei trimestri precedenti. Quindi le compravendite anche nell'ultimo trimestre dell'anno sono cresciute di quasi il 10% come il trimestre precedente, quindi il trend, diciamo, del mercato è ormai incanalato verso il recupero. Come dicevo, non torneremo a vedere il picco del 2006, perché è molto lontano, però diciamo che è un mercato in salute, è un mercato italiano sulle 500-600 mila compravendite all'anno. Paola, le banche concedono più mutui rispetto a qualche anno fa, e anche questo sicuramente aiutato. È un dato positivo. Qui i dati vanno sempre presi con le pinze, perché c'è una fetta di surroghe importante, quindi non bisogna stare attenti quando si vedono i numeri. La crescita però c'è ed è consistente nell'erogazione dei mutui. Andiamo ai prezzi. Ecco, i prezzi invece non seguono il trend delle compravendite, non scendono più così tanto come negli anni passati, anche se in Italia non c'è mai stato un crollo come si è verificato in Spagna, Irlanda, quindi in altri paesi. C'è stata una discesa lenta che è durata ormai 8 anni e dura ancora. Adesso il calo dei prezzi che si intravede anche per il 2016, secondo gli esperti, quindi secondo Nomisma eccetera, è intorno al 2%. Quindi vedremo ancora un 2016 con prezzi in calo, per poi vedere un recupero, una stabilità nel 2017-2018 sostanzialmente. Naturalmente occorre fare un discorso diverso a seconda della zona d'Italia che prendiamo in considerazione, provando a individuare le due grandi categorie, la provincia e la città. Quali differenze possiamo notare cogliere? Questo recupero è stato innescato proprio dai grandi capoluoghi, dove le compravendite sono ripartite prima che nella provincia. Nella provincia c'è da dire che i prezzi sono scesi molto di più, quindi adesso se riparte il mercato si possono trovare delle occasioni più interessanti. È un mercato più difficile, un mercato più fermo, dove chiaramente non ci sono le contrattazioni, la domanda che possono essere una città come Milano o come Roma, quindi è un mercato più lento. Però in generale quello che vedono adesso gli osservatori è che gli stessi tempi di vendita, che si erano allungati moltissimo, si stanno stabilizzando e anche gli sconti sul prezzo richiesto, diciamo, dal venditore stanno riducendo leggermente. Un discorso poi è quello dell'acquisto della prima casa, un altro quello per la seconda. Paolo, in questo caso che cosa puoi aggiungere? Come sta il mercato delle seconde case? Il momento buono per acquistarne una? In base a quali indicatori, quali elementi bisognerebbe secondo te considerare oggi, in questo momento, questa opportunità di farsi la casetta al mare o in montagna? Ecco, la seconda casa appunto può essere o la casa per il weekend, quindi la seconda casa al mare e in montagna, oppure la casa per investimento da mettere a reddito. Quindi diciamo che in questi due casi le valutazioni che bisogna fare sono diverse. La casa al mare e montagna è un acquisto del cuore, l'acquisto dei sogni, quindi è in genere un costo che uno va ad assumere, perché poi tra le tasse che si pagano, le spese di manutenzione eccetera, diventa sempre un costo. Però in questo momento è una nicchia che ha sofferto tantissimo, che sta un attimino riprendendosi. È andata molto bene invece il segmento dell'acquisto della casa all'estero, perché gli italiani in questi anni hanno comprato più che altro all'estero, quindi hanno cercato nelle grandi capitali, hanno comprato molto a Berlino, da sempre sono grandi acquirenti a Parigi, e hanno comprato a Londra, scalzando qualche anno fa anche i russi che erano i primi acquirenti. Letto anche su Casa 24 Plus che anche il mercato spagnolo è particolarmente interessante. Sì, è vero? Gli italiani comprano molto anche in Spagna, comprano molto a Barcellona, soprattutto a Madrid e anche nelle isole, dove in alcune isole i prezzi non sono scesi così tanto. Il mercato spagnolo ha avuto una crisi immobiliare molto pesante, ne è uscito prima dell'Italia, i prezzi non sono tornati a salire e diciamo in alcune località, che sono però anche località magari minori, sconosciute, i prezzi sono crollati anche del 50%. Questo non vale per le zone buone di Madrid o Barcellona o per le isole come Formentera, dove però i prezzi comunque sono scesi un pochino. Quindi comunque nelle capitali straniere si possono ancora fare dei buoni affari? Si può ancora trovare qualcosa di interessante. A Berlino i prezzi stanno salendo, però le occasioni ci sono ancora. In Spagna sicuramente, meno sicuramente a Londra, dove i prezzi sono ormai alle stelle. Allora 800 24 00 24, raccontateci il vostro sogno di casa, la casa che vorreste acquistare, oppure perché vorreste vendere la vostra casa per comprarne una più grande, più comoda, e vi piacerebbe acquistare la seconda casa, dove la comprereste se no vi fosse permesso, magari una vincita, un'eredità, ecco, per metterla lì in questa bella casa. Mantenendo uno sguardo internazionale, Paola, proprio nel mese di marzo si è svolto a Cannes il MIPIM, che è questa fiera immobiliare degli operatori professionali che ha riunito oltre 21.400 delegati da tutto il mondo. So che l'avete seguita e sono emerse delle tendenze che possono interessare anche gli italiani e in modo particolare anche gli ascoltatori di Cuore Denari, che stanno valutando un investimento nel settore immobiliare. Ci racconti? Allora, diciamo che sotto il profilo degli investimenti non residenziali, vengono chiamati commercial nel linguaggio del settore, si può trovare un grande interesse per l'Italia, un grande interesse che è iniziato 2 anni fa, cioè grandi fondi di investimento, le società di private equity, grandi investitori internazionali, quindi anche fondi sovrani come quelli medio orientali del Qatar e di Abu Dhabi, già da 2 anni e più sono tornati ad acquistare in Italia e c'è tuttora un grande interesse per il settore, perché l'Italia è considerata in questo momento abbastanza stabile dal punto di vista politico, governativo, non si vede è ancora... È un bellissimo paese. Ci sono, dal punto di vista dello stock immobiliare, immobili molto interessanti, anche se non in tutti i casi corrispondono a quelli che sono gli standard internazionali, perché adesso si vogliono immobili che sono moderni, con efficientamento energetico e così via. Noi magari abbiamo palazzi storici che dal punto di vista energetico non sono molto efficienti, quindi vanno rivisti. Però c'è un'ondata di acquisti. Lo charme si paga. Certo. Sono d'accordo. Quindi c'è stata un'ondata di acquisti inizialmente opportunistici che continua, ma adesso ci sono anche acquisti per restare nel paese, quindi si comprano immobili, uffici, centri commerciali, si tengono a reddito in un'ottica di medio e lungo periodo sostanzialmente, e la fortissima liquidità che è presente sul mercato, perché le asset class di investimento alternative oggi danno poco e niente, quindi come ritorno si parla sia di buoni statali e così via, l'immobiliare è tornato ad essere interessante, perché anche in Italia, dove i rendimenti oggi sono un pochino sotto pressione, si possono trovare rendimenti comunque ancora del 5-6%. La casa è solo un gran fardello oramai, ci scrive un ascoltatore al 349-238-6666, anche un messaggio su WhatsApp. Noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo poi anche con le vostre domande insieme alla nostra esperta tra poco. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Cuore e Denari. Conti, conti, conti, che sei la mia passione, io parlo, parlo del mattone. Noi continuiamo a commentare il ballo e tutti i movimenti del mercato del mattone, dandovi anche qualche consiglio e indicazione sulle vostre scelte insieme a Paola Dezza del Sole 24 ore. 800 24 00 24, raccontateci qual è il passo che aspettate da tempo di compiere in tema di casa. Vogliamo, Paola, anche concentrarci sulla seconda casa. Allora, dove comprano la seconda casa gli italiani? Mare, montagna, laghi? Allora, dipende un po' da... Siccome l'Italia è un po' particolare, è lunga, dipende dove ci si trova. Quindi, nel nord Italia si compra più che altro in montagna. Invece, se ci si sposta al centro-sud, si cerca più il mare. Noi abbiamo fatto un'analisi un po' di tempo fa per capire dove ha tenuto di più il valore. Abbiamo visto che ha tenuto leggermente di più in montagna il valore a livello di prezzi. Montagna la stagione è anche un pochino più lunga, quindi se uno acquista una casa per metterla a reddito ha possibilità di affettarla per un periodo perché più la lungo. Sfrutti sia d'estate sia d'inverno. Esatto, ci sono delle località dove appunto anche d'estate è alta stagione sostanzialmente, quindi si affittano bene le case. La manutenzione è costosa in tutte e due, le tasse sono alte, quindi sì, è vero, la seconda casa è un fardello, però è anche vero che è una casa che si può mettere a reddito, si può sfruttare tutti i weekend, quindi alla fine la famiglia la utilizza. Se dovesse andare, se gli albergatori ce l'avranno con me, ma se dovesse una famiglia andare tutti i weekend in albergo, forse avrebbe una bella spesa. Andiamo a Monza, c'è Giovanna. Buongiorno Giovanna. Buongiorno. Buongiorno a lei, benvenuta. Grazie. Allora qua c'è un figlio. Sì, mio figlio ha una casa a Milano, è troppo grande, troppo costosa, la vuole vendere per comprarne una più piccola. Sì. È una prima casa, è anche la più piccola che comprerà, se questa la vende sarà una prima casa. Sì, vuole insomma andare... Vuole sapere di cosa si può usufruire, non so... Allora, intanto, allora, quali sono i benefici, quali sono gli oneri? Lei, Giovanna, ma lei è d'accordo con la scelta di suo figlio? Dica la verità. Sì, sì, d'accordissimo. Gliel'ha un po' suggerito anche lei? No, l'ha capito da solo. Perché ogni tanto ci arrivano, Giovanna? Sì. Allora, maggiore. Allora, Paola, è il momento di cambiare casa. Mi guardo attorno. La casa diventa grande, è costosa, onerosa. Devo guardarmi intorno e dico, vendo questa, ne compro una più piccola. E così riesco anche a tenermi da parte anche un po' di soldini. Tu come ti muoveresti per non sbagliare? Quali sono i passi importanti da fare e le buche da evitare? Allora, cercherei prima di tutto di capire cosa voglio dalla nuova casa e magari di guardare diciamo degli immobili moderni di nuova costruzione. Io che ho fatto l'errore di comprare una casa degli anni 30 dove spendo delle spese condominiali un po' altine, diciamo. Quindi, quasi come un affitto. Sì, no, un po' meno, però insomma altine. Invece se si guarda una casa appunto di nuova costruzione ha un'efficienza tutta diversa, una durata del tempo anche diversa. Quindi cercherei di risparmiare soprattutto su questo fronte, riscaldamento, spese eccetera. E poi per quanto riguarda il discorso della quindi vendita, una casa nuova, non farsi attirare dalla casa che magari è tutta da ristrutturare e magari viene via un pochino. Dipende i tempi che ha a disposizione la persona, nel senso se ha tempi stretti una casa magari già in ordine è meglio di una casa da ristrutturare che richiede sempre 3-6 mesi minimo di lavoro. Poi per il resto proverei a guardare anche il modo di trovare una casa senza pagare magari l'agenzia immobiliare, perché è un risparmio anche quello. Chiaramente non so come è stata messa in vendita questa prima casa, se magari sui tanti portali che sono a disposizione come privato. Quindi tu la metteresti in vendita, suggeriresti di mettere in vendita la casa in un portale? Sì, in modo da risparmiare l'agenzia. E cercare anche la casa nuova con una di queste modalità. Sono nate per esempio dei siti ultimamente che mettono in contatto i privati tra di loro e quindi risparmiando quello che è il costo di un'agenzia immobiliare, che non è proprio banale. Aggiungiamo, diciamo, far vedere la casa alla mamma. Sì. Ecco perché Giovanna così è contenta. Cesare, buongiorno da Bergamo. Sì, buongiorno. Buongiorno a voi. Cesare. Grazie. Allora, con Cesare si sogna, eh? Cesare. Sì, in effetti, in effetti penso di sì, almeno questo è il mio sogno, non di altri. Allora, lo condivida con noi, Cesare. Lei vuole comprare una casa? In Grecia, in Grecia, in particolare su un'isola greca. E mi chiedevo se è un mercato attualmente così valido, ecco. Allora Paola, un'isola greca. Allora i dubbi sulla Grecia che c'erano fino a non tanti mesi fa adesso sono diciamo leggermente meno pesanti, quindi bisognerebbe conoscere bene il mercato prima di tutto, capire dove la si vuole acquistare. I prezzi che in Grecia sono scesi molto, sono scesi soprattutto ad Atene, nelle grandi città, ma anche nelle isole, hanno invece tenuto nelle isole più frequentate, quindi certo, nelle isole più belle, le case più belle nelle location centrali non Cesare sono... ci ha fatto venire un po' di curiosità, dove vuole comprarla questa casa? Così noi prepariamo il costumino, La voglio comprare a Milos. Ecco, a Milos. E Paola, tu tra l'altro Milos la conosci? No, la conoscerai? Conosco, ci andrò l'estate prossima. Quindi puoi guardare quindi anche per posso Cesare. Posso guardare anche per Cesare. Comunque nel mercato, nelle isole naturalmente dove c'è turismo i prezzi non scendono molto, certo. Ecco, quali sono i passi da fare quindi per un acquisto in un'isola come vuole fare Cesare? Conoscere molto bene il mercato, affidarsi a qualche professionista del posto che in si conosce. In questo caso è utile. Sì, io mi affiderei a qualcuno del posto sicuramente, cioè non andrei all'avventura anche per conoscere bene quali sono i passi da fare, perché ogni mercato immobiliare di ogni paese ha delle sue regole, quindi è meglio informarsi bene prima di quello che possiamo aspettarci. Alle aste vendono le case al 50% del valore di mercato, mi scrive un ascoltatore al 349-238-6666. E infatti tutti stanno comprando alle aste a prezzi stracciati. Paola. Beh, questo era vero qualche anno fa, adesso effettivamente i prezzi delle aste non dico che si siano allineati con quelli di mercato, ma sicuramente sono saliti rispetto a quello che si poteva diciamo spuntare anche solo 10 anni fa. Per quanto riguarda le aste non sempre è facile l'iter da seguire, perché non sempre si può vedere la casa, non sempre si possono avere tutte le informazioni, però è una strada che si può tentare se si conosce l'immobile e si vuole fare un investimento. Da questo punto di vista è una strada sicuramente da praticare. È più facile chiaramente trovare una casa e acquistarla in maniera diretta dal proprietario. Allora è arrivato un messaggio su WhatsApp di un ascoltatore che probabilmente è un agente immobiliare, che ci scrive: con tutte le carte e tutte le leggi, risparmi sull'agente immobiliare e sorprese sul lato. Meglio spendere alcune migliaia di euro per l'agente anziché sprecare molti denari in operazioni senza garanzie. Allora questo è valido soprattutto in quali casi? Quando Paola? Se ha la fortuna di trovare un agente immobiliare molto preparato. Diciamo che in alcuni casi ci sono brutte sorprese anche su questo settore. Possiamo tracciare l'identikit dell'agente immobiliare che ci dà affidamento, non solo, no? Vedendolo, perché la fiducia è anche qualcosa, no? Qualcosa che passa, impalpabile, no? Di sì, impalpabile. Sì. Lo guardi e dici di questo mi fido, ma a volte no, ci sono poi le sorprese. Quali garanzie dobbiamo chiedere al nostro agente immobiliare a cui vogliamo affidarci per l'acquisto della seconda casa, della prima casa, della casa all'estero? Allora, prima di tutto avere una conoscenza almeno minima e capire se conosce bene il settore, quali sono i documenti da produrre nel momento in cui si fa la proposta, si fa l'atto, eccetera. Quindi diciamo informarsi da soli prima. Noi abbiamo fatto anche una serie poi di libretti che sono stati pubblicati con Sole 24 Ore. È sempre meglio, in modo tale da avere la conoscenza del settore, l'iter da seguire e testare poi la preparazione di chi si ha davanti, anche perché diciamo che l'iter non è così banale, appunto. Bisogna avere poi documentazioni, vedere che sia tutto in ordine, la visura catastale, che insomma la casa che si va a comprare deve essere una casa poi chiaramente che non abbia problemi. Certo. E anche problemi che vengono negati, perché bisogna poi controllare sempre che l'immobile sia in ordine, che non abbia appunto dei problemi che non vengono detti dall'agente immobiliare o dal proprietario. Quindi diciamo quindi che non è un passo, ci si è un può passo... mai affidare completamente. No, direi di no. Andiamo, anzi restiamo a Milano. C'è Giuseppe con noi all'800 24 00 24. Buongiorno Giuseppe. Ciao a tutti, ciao. Buongiorno. Ci dica. Niente, volevo chiedere giustamente un consiglio, approfittavo dell'occasione. Sì. Quattro risparmi, cosa ne pensate a proposito del mercato americano, nella fattispecie New York e Miami, dove stanno investendo molti investitori stranieri, tra cui tanti italiani. Grazie Giuseppe. Paola, si parte? Miami, New York, dove si va? Con piacere. Noi se ci invitate veniamo, anche solo per vedere la casa, no? Volentieri. Io porto Paola Dezza, invitiamo naturalmente anche Deborah, che tornerà domani. E partiamo. Facciamo prima una prima visita. Allora, con mercato piacere. Americano. Allora, il mercato americano è un mercato che è sostanzialmente ripartito, quindi si è lasciato alle spalle tutta quella che è stata la crisi dei subprime, la crisi immobiliare. Soprattutto a New York e Miami i prezzi sono ripartiti già ormai da qualche semestre. Quindi ci si trova a comprare case a valori molto alti. New York soprattutto è un mercato in cui c'è molto nuovo, c'è una grande offerta di super lusso, perché lì comprano, diciamo, i ricconi, i paperoni da tutto il mondo, quindi c'è una grande domanda in questo momento e i prezzi sono arrivati tranquillamente a 14-15 mila euro. Caspita, quindi altro che quattro risparmi, bisogna averne. Sì. Allora vorrei fare un saltino a Lucca rapidamente con Gaspare. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Gaspare. Vada, che sennò ci tagliano con il GR. Sì, allora io ho comprato una casa in Val Gardena, Ortisei, provincia di Bolzano, una casa vacanze. Mi fanno pagare la tassa di soggiorno per tutto l'anno, oltre 300 euro. Vorrei sapere se è una cosa regolare, perché è una, non succede. Perché questa, ecco, questa tassa le sta un po' qua. Allora, se è una cosa regolare, se lo fanno, possono farlo, sono decisioni chiaramente. Dove può informarsi per valutare che questa tassa sia davvero... Magari giusta. Anche presso un avvocato, se conosce qualcuno, per avere queste informazioni, secondo me anche un avvocato potrebbe essere la persona giusta. Il comune immagino che dica che la tassa bisogna pagarla. Quindi magari ci sono, magari può, no, informarsi presso un avvocato, il comune tu eviteresti, ma comunque di andare a fondo. Nel caso ci scriva, perché Cuore Denari si metterà al lavoro. Grazie a Paola Dezza. Grazie a voi. Buona casa a tutti. Noi continuiamo subito dopo il GR. Affrontiamo un tema che mi sta particolarmente a cuore: la salute del pancreas. Tra poco. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. State ascoltando un programma offerto da Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Se ci chiedessero a bruciapelo di localizzarlo, a cosa serve, che cosa lo danneggia e che cosa invece può proteggerlo, sono certa che avremmo qualche difficoltà a rispondere. Ma a dispetto di questa mancata notorietà, il pancreas, che è il protagonista di questa seconda parte della puntata, è un organo molto importante e complesso che è bene imparare a conoscere. Oggi ci aiuta il dottor Giampaolo Balzano, responsabile dell'unità funzionale di chirurgia pancreatica dell'Istituto Scientifico Ospedale San Raffaele di Milano. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Intanto, dottor Balzano, io la ringrazio per essere qui con noi, perché di pancreas si parla poco, sicuramente è un organo meno popolare di fegato, cuore, reni, ma credo che ci sia anche una sorta di resistenza a parlarne, perché chi lo conosce lo teme, sa che può ammalarsi anche molto seriamente, e spesso quello che ci fa paura tendiamo ad evitarlo, un po' a scotomizzarlo. È proprio così. Io penso che in realtà, a conoscere bene il pancreas, uno dovrebbe temerlo meno di quello che succede in realtà, perché la sua fama è più brutta di quello che può fare. In particolare quello che fa più paura di tutti è il tumore del pancreas, ma sono veramente pochi quelli che sanno che in realtà la maggior parte dei tumori del pancreas sono tumori benigni, non sono tumori maligni, tumori molto aggressivi, tumori da cui non si può guarire. E per cui quando una persona fa un esame e viene trovato un problema al pancreas, noi vediamo dei pazienti che sono terrorizzati al pensiero che appunto uno abbia un tumore del pancreas, un tumore da cui è difficile guarire, perché non sa che nella maggior parte dei casi in realtà si tratta di tumori benigni, tumori che ci faranno compagnia per tutta la vita, oppure tumori che magari dovranno essere tenuti sotto controllo per capire se c'è bisogno di tirarli via, perché possono evolvere verso forme più maligne. Allora, questa è già una buona notizia, dottor Balzano. 800 24 00 24, per tutti i dubbi, le vostre domande, le vostre esperienze. Iniziamo, dottor Balzano, a fare una sorta di carta d'identità di questo organo, con notati e contrassegni salienti, residenza, professione, eventuali segni particolari, e poi parleremo di un'indagine di cui vogliamo proprio informare i nostri ascoltatori. Allora, il pancreas è un organo piccolino che si trova nella parte superiore dell'addome. Il suo peso è meno di 100 grammi, quindi appunto per dare l'idea che è proprio una cosa piccola. Ha una forma allungata, io lo paragono ad una banana, con una parte un po' più ingrossata, che è la parte che noi chiamiamo testa del pancreas. Si estende dalla milza, nella parte sinistra dell'addome, fino alla parte centrale, dove c'è il duodeno al di sotto del fegato, e appunto è lungo una ventina di centimetri. Il pancreas è una ghiandola, e quello che il suo lavoro è quello di produrre delle sostanze, ed è diviso in due parti il pancreas. Una parte produce gli enzimi pancreatici, che sono delle proteine, delle sostanze che ci aiutano nei nostri processi digestivi. La loro funzione è quella di arrivare al duodeno e di andare a miniaturizzare gli alimenti, fare in modo che poi questi micronutrienti... Sì, proprio per permettere poi all'intestino di poterli assorbire. Certo. Gli alimenti tali e quali potrebbero essere assorbiti solo in minima quantità dall'intestino. Quindi una prima funzione è quella di partecipare ai processi digestivi. La seconda funzione invece è quella di produrre delle altre proteine, delle altre sostanze che noi chiamiamo ormoni e che vengono riversati direttamente nel sangue. Sono ormoni che il pancreas rilascia in risposta ad alcuni stimoli. Il più famoso fra questi è l'insulina. L'insulina è l'ormone che regola il livello di zuccheri nel sangue. Quando non c'è abbastanza insulina, il livello di zuccheri è troppo alto e compare un quadro che tutti noi conosciamo molto bene, che è quello del diabete, cioè la malattia per cui i livelli di zuccheri nel sangue sono troppo alti. Possiamo aggiungere che è un organo che quando si ammala non dà segni chiari? Sì, è proprio così. Insomma, nella maggior parte dei casi uno ha una malattia del pancreas e non lo sa. Qualche volta per fortuna non lo sa, perché è meglio magari non scoprire che ci sono delle malattie e che non daranno mai problemi per tutta la vita. Mi riferisco appunto a questi tumori benigni. No? Che nel momento in cui uno lo trova poi comincia a preoccuparsi, ad agitarsi, e la sua preoccupazione principale è quello di rimuovere questo tumore. E qualche volta si trovano anche dei chirurghi che forse non conoscono approfonditamente queste malattie e che allora sono invitati a togliere questi tumori, e lo fanno, e quindi fanno una chirurgia piuttosto impegnativa e che poi lascia anche dei segni permanenti, per cui qualche volta diciamo è meglio non saperlo, qualche altra volta sarebbe molto meglio saperlo prima. In questo caso parliamo ovviamente di quello che è il tumore maligno del pancreas, in cui qualche volta si presenta quando ormai è un po' troppo avanzato per poter avere delle cure efficaci. A proposito di tumore maligno del pancreas, chi più fa più sano, sembra un gioco di parole ma potrebbe essere la sintesi dei risultati a cui è giunta l'indagine, da cui ha preso spunto proprio la puntata di oggi, che l'Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas, di cui lei fa parte, ha svolto insieme alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute e dal Centro di Ricerca dell'Università Bocconi di Milano. Ce la vuole raccontare? Cerco di farmi capire, anche se insomma parleremo di cose un po' tecniche, un po' complesse. Allora, il pancreas si parte dal presupposto che è difficile da curare, è difficile da inquadrare, perché le malattie pancreatiche complessivamente sono piuttosto rare e inoltre si possono anche presentare ci possono essere diverse malattie che si possono presentare con quadri simili, quindi anche l'inquadramento diagnostico è difficile. Ad esempio la pancreatite con il tumore? Per esempio alcune malattie infiammatorie, la pancreatite cronica soprattutto, che può essere confusa con un tumore, e i quadri possono essere molto simili, anche dal punto di vista diagnostico non è così semplice, non ci sono degli esami che ci dicono con sicurezza qual è la malattia che abbiamo di fronte. Sì. Per cui appunto anche orientarsi con delle malattie rare in cui i quadri di presentazione sono simili e mancano degli esami diagnostici così chiari, alla fine chi non ha familiarità con queste malattie fa fatica ad averci a che fare. A questo aggiungiamo il fatto che la chirurgia è particolarmente complessa, un po' per la localizzazione della ghiandola vicino a dei grossi vasi, profondità dell'addome, e un po' anche perché proprio il pancreas in sé, producendo questi succhi digestivi, ostacola la cicatrizzazione, questo insomma rende la chirurgia particolarmente delicata. Se mettiamo insieme tutte queste cose, sappiamo che chi viene curato in centri dove c'è maggiore esperienza può avere ricevere un trattamento migliore rispetto a chi viene curato invece in ospedali dove l'esperienza è scarsa. Partendo da questo presupposto abbiamo deciso di fotografare quella che era la situazione dei centri che offrono una chirurgia ai pazienti che hanno un tumore del pancreas. Quindi abbiamo chiesto al Ministero, che è stato molto collaborativo da questo punto di vista, l'accesso ai dati che riguardano tutti i ricoveri ospedalieri di pazienti che avevano un tumore del pancreas e che erano stati operati in un certo periodo di tempo. Abbiamo avuto così la fotografia di quello che succedeva, abbiamo scoperto delle cose molto interessanti, cioè abbiamo voluto quantificare un problema di cui avevamo la percezione che esistesse, ma fino a quando non ci sono dei dati certi, allora prima di tutto vediamo di qual è l'entità del problema e poi prendiamo dei provvedimenti. E che cosa avete fotografato? Allora, abbiamo analizzato più di 11.000 interventi interventi a cui sono stati sottoposti pazienti con tumore del pancreas. Il primo dato che ci ha stupito, che anche se era un po' atteso, è la quantità di ospedali che in Italia operano pazienti con il tumore del pancreas. Cioè abbiamo trovato che 544 ospedali hanno operato in 3 anni pazienti col tumore del pancreas. Il numero in sé può magari dire poco, ma se facciamo un confronto con quello che succede in altri paesi dove le autorità sanitarie hanno regolamentato l'erogazione della chirurgia pancreatica, come per esempio l'Inghilterra, In Inghilterra ci sono soltanto una ventina di ospedali che praticano la chirurgia del pancreas, in Italia abbiamo detto 544, questo dà un po' un'idea delle proporzioni. Allora, di questi 544, l'altro dato sconfortante è che più di 400 di questi 544 ospedali operano, diciamo, asportano un tumore del pancreas all'anno, quindi la loro esperienza chirurgica, diciamo che si tratta di una chirurgia complessa, è costruita su un intervento di asportazione del tumore ogni anno, che è un dato che fa pensare che sia inadeguata la loro preparazione. Lei quanti interventi fa in un anno il vostro centro? Allora, di centri di chirurgia, cioè di interventi di resezione pancreatica a San Raffaele l'anno scorso sono stati 225 in un anno, e non tutti per tumore maligno del pancreas come quello che stiamo considerando, però diciamo la maggior parte sono per tumori maligni del pancreas, quindi appunto l'esperienza è ovviamente molto diversa da centro a centro. Quindi abbiamo detto più di 400 ospedali che operano che asportano un tumore del pancreas all'anno. Questo è il primo dato. Il secondo dato, appunto, siamo andati a misurare quello che succede, quali sono le conseguenze di questi, quali sono i tipi di interventi che vengono eseguiti e quali sono le conseguenze. E cosa sono, in che termini possiamo misurare? Diciamo in termini di complicanze. La complicanza più grave che noi abbiamo per questo tipo di interventi è quando il paziente muore, che è ovviamente il dramma dei parenti, del paziente, dei medici, quando il paziente muore in conseguenza dell'operazione. Abbiamo misurato questo dato e abbiamo trovato che purtroppo negli ospedali con scarsa esperienza, in questi più di 400 ospedali, abbiamo un tasso di mortalità che è di 4-5 volte aumentato rispetto agli altri ospedali, a quelli in cui invece l'esperienza è molto alta. E questo è un dato che purtroppo emerge dal nostro lavoro, emerge anche da tutto da tutta la letteratura internazionale, e purtroppo questo accade anche in Italia. E accade non soltanto per gli interventi di asportazione del tumore, ma anche per gli interventi in cui il tumore non viene asportato, perché c'è una quota di interventi in cui il paziente viene operato, ma il tumore non viene asportato. Quello che abbiamo misurato è che il rischio di morire anche per questi interventi in cui il tumore non viene asportato è molto alto, paragonabile a quello in cui il tumore viene asportato. Allora, intanto abbiamo i nostri ascoltatori che intervengono all'800240024. Grazie. Gilbert, mi sembra, da Sondrio. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Grazie di avermi chiamato. Grazie a lei. Ci racconti la sua esperienza? Niente, io 8 mesi fa sono stato operato. Ecco, volevo portare l'esperienza nel senso che ci sono magari ospedali minori che non vengono mai citati dove si applica della ottima chirurgia. L'ospedale di Sondrio è uno di questi. Volevo ringraziare in questo caso il mio primario, il dottor Bordoni. Io sono stato operato di tumore alla testa del pancreas. Praticamente mi hanno asportato la testa del pancreas. Io dopo 8 mesi, ecco, sto molto sono qua che parla Radio 24 a cuore denari e noi siamo con lei. Grazie. Dottor Balsano. Sì, per fortuna sono contento di sentirla, ed è quello che per fortuna succede a quasi tutti i pazienti che hanno la sua malattia e che possono essere operati. Allora, anche in questo caso ovviamente dipende sempre da quale, come abbiamo detto, parlare di tumore della testa del pancreas è un termine molto vago e abbiamo malattie molto diverse. Diciamo che anche appunto in un paziente come magari lei che ha avuto un tumore maligno della testa del pancreas, essere operati, e l'obiettivo ovviamente è sempre quello di guarire queste persone, anche se purtroppo questo non può essere raggiunto in tutti i casi, però appunto quando noi abbiamo la possibilità di operare questo tipo di tumori abbiamo sempre la speranza che poi il nostro paziente guarisca, e quindi sono contento per il signore di Sondrio e speriamo che appunto tutto funzioni così che non ci siano più tracce di questa malattia. Dottor Balsano, ma secondo le linee guida nazionali e internazionali, solo chi ha tanta esperienza tecnicamente, quelli che vengono definiti ospedale ad alto volume chirurgico, dovrebbero praticare questo tipo di chirurgia che lei ci ha spiegato, è una chirurgia, no? Abbastanza complessa. Nel nostro paese però non ci sono delle direttive in merito, che esistono invece peraltro ad esempio per i centri di senologia, ne parleremo nel corso della puntata, e questa è una convocazione per le amiche all'ascolto. Ma tornando al tumore del pancreas, se i centri di eccellenza sono pochi e solo l'anno scorso si sono registrati 12.500 casi, e secondo le previsioni nel 2030 il tumore del pancreas diventerà il secondo tumore dopo quello del polmone, la domanda sorge spontanea: come si potranno accogliere i malati e assicurare a tutti nei tempi previsti e adeguati il miglior trattamento possibile? E questa è una bellissima domanda a cui tutti noi siamo impegnati a rispondere. Diciamo che appunto l'obiettivo del nostro studio era quello di fotografare il problema, di dare un'entità a quello che era il problema in maniera tale poi da prendere i provvedimenti conseguenti. Ecco, ritornando un attimo, facendo un passo indietro e ritornando ancora alla ricerca, l'altra cosa che abbiamo trovato in questa ricerca appunto, diciamo, che riguardava i tipi di interventi a cui venivano sottoposti i pazienti. Quello che abbiamo osservato è che negli ospedali che avevano una scarsa esperienza nel trattare le malattie pancreatiche, i pazienti venivano operati molto più frequentemente rispetto ai pazienti invece che venivano trattati nei centri con molta esperienza. Cosa vuol dire questo? Venivano operati molto più frequentemente ma senza togliere il tumore, cioè venivano sottoposti ad interventi che noi chiamiamo di tipo palliativo, diciamo per risolvere un problema, oppure interventi di tipo esplorativo in cui si andava a vedere se il tumore poteva essere asportato e poi si trovava che il tumore in realtà era più avanzato di quello che era. Ecco, questo non dovrebbe succedere. Questo, ci sono delle tecniche endoscopiche che permettono di risolvere la maggior parte dei problemi che il paziente può avere senza ricorrere ad un intervento chirurgico. E poi appunto abbiamo comunque la possibilità di studiare adeguatamente il tumore prima dell'operazione senza dover arrivare a dire ma andiamo a vedere un po' quello che troviamo. Insomma, quindi diciamo l'altra conseguenza del trattamento nei centri a basso volume è un po' quello di avere quasi un rischio di essere sottoposti ad interventi in eccesso, un numero eccessivo di interventi che poi abbiamo anche quantificato dal punto di vista economico quelle che potrebbero essere le conseguenze. Allora, dicevamo, come si fa a offrire un servizio di qualità adeguata a tutti questi pazienti? Le cose devono cambiare. Allora, se noi consideriamo che allo stato attuale noi abbiamo 544 ospedali che operano pazienti col tumore del pancreas, questo numero potenzialmente potrebbe essere ridotto di un decimo, cioè arrivare a 50, anche 100 ospedali che offrono questo tipo di chirurgia, e sarebbero assolutamente sufficienti. Ora, non dobbiamo fare riferimento solamente ai centri di eccellenza, che sono meno di una decina in Italia, che fanno ricerca, che hanno dei numeri molto alti E dobbiamo pensare che ci sono comunque degli ospedali che offrono un servizio del tutto adeguato, che magari appunto non operano 100-200 pazienti all'anno, ma c'è sicuramente una competenza adeguata, c'è sicuramente una preparazione e un'esperienza che permette di offrire un ottimo servizio. Già adesso questi sono quasi una cinquantina in Italia, questo numero di ospedali. Quello che noi dobbiamo fare è selezionare i pazienti, selezionare gli ospedali, dare delle direttive, creare delle reti di comunicazione fra i vari ospedali in maniera tale che un paziente, anche se ricoverato in un piccolo ospedale, possa usufruire della valutazione di un ospedale maggiore con più esperienza. Che ha maggiore competenza. Proprio così. Queste reti in qualche modo esistono già, dobbiamo lubrificarle, oliarle, fare in modo che effettivamente si parli più frequentemente con ospedali di riferimento e si possa decidere insieme qual è il trattamento. E voi potete parlare con noi all'800 24 00 24 per tutte le domande che attengono al pancreas, dei vostri dubbi, arrivano anche via WhatsApp. Ci scrive Cristina: vorrei sapere se ci può essere una connessione tra cattiva digestione e pancreas. Dottor Balzano, produce gli enzimi che aiutano alla digestione, abbiamo detto che questa bananina è un tritatutto e allora viene naturale fare questo legame, ma allora se digerisco male, se dimagrisco, potrebbe arrivarmi, no, avere il sospetto che il problema sia proprio lì nel pancreas, questa ghiandola che mi fa così paura? Come spesso accade, per prima cosa dovremmo intenderci su che cosa vuol dire problemi di digestione, perché a volte quello che noi addetti ai lavori chiamiamo problemi digestivi è diverso da quello che ognuno è un campo dove medici e pazienti non si intendono. Diciamo che normalmente uno che ha problemi digestivi vuol dire che dopo mangiato magari ha un po' di bruciori, ha un po' di peso sullo stomaco. Ecco, questo non necessariamente è quello che noi intendiamo come problemi digestivi, in cui la digestione, il processo della digestione che avviene all'interno del tratto gastroenterico è proprio quello di invece andare a sminuzzare i cibi e permettere di assorbirli. Il pancreas certo c'entra con la digestione, però normalmente i problemi che può dare il pancreas sui processi digestivi, cioè quando non riesce a produrre abbastanza sostanze, non riesce a lavorare adeguatamente, quindi a miniaturizzare gli alimenti in maniera che possano essere assorbiti, quello che succede è che rimane all'interno del tratto gastroenterico una maggiore quantità di alimenti non del tutto digeriti. Quando noi mangiamo non è che assorbiamo tutto quello che noi mangiamo. C'è sempre una quota di alimenti non digeriti che rimane all'interno dell'intestino e che poi viene buttata fuori naturalmente. Ecco, quando il pancreas non funziona, aumenta questa percentuale di alimenti non digeriti che rimane nell'intestino e quindi questo si ripercuote su un aumento della frequenza di evacuazione con un cambiamento delle caratteristiche delle feci. Questi sono i problemi digestivi che può dare il pancreas e anche una diminuzione del peso, insomma, quando non viene assorbito abbastanza. Sì, c'è un dimagrimento che può essere anche importante, ecco, nel quindi, breve tempo. Certo, è proprio così. Quindi quello che può dare come problemi digestivi il pancreas non è tanto la pesantezza, il bruciore, queste cose che normalmente vengono interpretate come problemi digestivi, ma è proprio un aumento della frequenza di evacuazione, un cambiamento delle caratteristiche delle feci che rimangono un po' più untuose e poi una diminuzione del peso che può essere legato a questo. Andiamo a Verona, c'è Massimiliano, buongiorno, benvenuto Massimiliano, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, grazie Massimiliano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo portare la mia quasi personale esperienza, perché il tumore al pancreas l'ha avuto mio padre una decina di anni fa. Ed era di quelli brutti. È stato un breve decorso, perché un sei mesi e dopo è deceduto. Niente, io ho 40 anni e in famiglia c'è una familiarità al tumore, soprattutto sia la sorella di mia mamma, mia zia e sia mio papà hanno avuto entrambi il tumore al pancreas, sono deceduti. Volevo un attimo capire, ecco, che quali sono le misure, le attenzioni, gli esami? Esatto, a livello preventivo, insomma, so che ci sono degli esami del sangue specifici adesso che possono dire qualcosa. Sempre a livello preventivo, chiaramente, non so, volevo sapere. Grazie, queste cose qua. Grazie Massimiliano, perché la sua domanda risponde. Sì, la ringrazio per la domanda che ci permette di appunto dare qualche informazione utile. Allora, lei ha detto che ha avuto due parenti che si sono ammalati di tumore al pancreas, però uno è dalla parte del padre e l'altro è dalla parte della madre. Quindi non arrivano dallo stesso ceppo familiare, non hanno gli stessi geni e quindi diciamo che sono due tumori che si possono essere considerati sporadici, occasionali, cioè che non appartengono ad uno stesso gruppo familiare. Diverso sarebbe stato se anche il fratello di suo padre si fosse ammalato al pancreas, cioè quando ci sono dei gruppi familiari all'interno della stessa linea, quindi dello stesso familiare, che sia padre o madre, allora in questo caso ci può essere un aumento del rischio, perché c'è appunto una sorta di predisposizione genetica in questi gruppi familiari, ma si tratta solamente di all'incirca un 10% delle situazioni in cui c'è un tumore del pancreas. Il 90% non c'è questa predisposizione, quindi io posso tranquillizzarla da questo punto di vista, perché abbiamo questi due tumori del pancreas, ma sono da due linee diverse, cioè una dalla linea materna e una dalla linea paterna, quindi non siamo di fronte a questo tipo di predisposizione, quindi il rischio che lei ha di ammalarsi di tumore è uguale al rischio che posso avere io o insomma qualunque altra persona, infatti, per cui non deve sottoporsi a degli esami specifici, a differenza di quelli che appartengono invece a dei gruppi familiari in cui è previsto un programma di screening più accurato e che prevede degli esami strumentali almeno per dare una fotografia iniziale della situazione. Per quello che riguarda l'esame del sangue, come diceva lei, purtroppo non abbiamo un esame del sangue che può essere utilizzato per lo screening. Esiste un marcatore tumorale che però viene utilizzato più che altro per il monitoraggio della malattia, perché ha una serie di svantaggi, una serie di valori che possono essere falsamente positivi e per questo non può essere utilizzato come esame di screening. Si sta lavorando molto, anche perché questo è uno dei filoni di ricerca più interessanti, quello sull'identificazione di fattori che ci permettono di rivelare la presenza del tumore quando questo non si è ancora manifestato con i suoi sintomi e segni, che purtroppo si sa che sono un po' tardivi. Nella maggior parte dei casi questo tumore si manifesta quando c'è una diffusione del tumore che allora rende estremamente difficile la sua cura, mentre invece se lo riuscissimo ad identificare in una fase precoce, pensate che si ragiona in termini di anni da quando si trasforma la prima cellula tumorale a quando poi il tumore si manifesta, quindi abbiamo un intervallo estremamente lungo in cui noi potremmo andare a trovare queste tracce di questo tumore, e quindi stiamo lavorando in questo senso, ma per il momento ci sono dei suggerimenti che non sono ancora stati provati, quindi ci aspettiamo molto nei prossimi anni, ma per il momento non abbiamo un esame del sangue che ci permetta di fotografare questa situazione. Adesso andiamo a fotografare i mercati, ma ritorniamo subito dopo insieme con il dottor Balzano, con le novità anche sul fronte della ricerca, con tutte le vostre domande. Il pancreas si può ammalare, non tutti però, non sempre i tumori sono maligni, un gran numero di tumori sono benigni, ma il pancreas può anche infiammarsi. Parleremo di prostatite, che è pancreatite, può essere cronica, può essere acuta. 800 24 0024 per restare con noi, a tra poco. Vorrei un'Europa dove anche le donne possano far sentire la loro voce. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio Alto Rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Eccoci tornati insieme, oggi parliamo di pancreas. Lo spunto di questa trasmissione ce l'ha dato un'indagine che ha studiato 11.000 interventi chirurgici per cancro del pancreas, per evidenziare che molti degli interventi vengono eseguiti in centri che non hanno le competenze specialistiche per farlo. Si tratta, parlavamo di interventi per tumore del pancreas aggressivi, ma non solo, e quindi abbiamo commentato insieme al dottor Balzano questi dati per mandare un messaggio chiaro agli ascoltatori, non allarmistico, ma la sanità italiana è un fiore all'occhiello. È molto buona, quindi questo è il primo messaggio che dobbiamo portarci a casa. Ce ne lamentiamo sempre, ma abbiamo una sanità che il mondo ci invidia, ma ci sono delle cose che dobbiamo sapere, cioè che più più uno fa più sa. Io la sintetizzo in questo che può essere, sembra un detto popolare, ma in effetti la quantità a volte fa anche la qualità. Ma certo, appunto il problema, la sanità italiana davvero funziona molto bene, noi abbiamo i dati anche degli altri paesi che nel settore specifico della chirurgia pancreatica e sappiamo che non sfigura assolutamente, anzi è molto apprezzata la pancreatologia italiana a livello internazionale. Però appunto sappiamo che ci sono anche delle cose che non vanno del tutto bene e che dobbiamo correggere, questo è stato l'obiettivo, cioè non certo quello di creare allarmismo, ma quello di fotografare la situazione attuale della chirurgia del pancreas, della chirurgia del tumore del pancreas in Italia, per poter suggerire dei correttivi. E io ringrazio lei, Nicoletta, ringrazio Radio 24 per questa finestra che ci permette di poter dare questo tipo di informazione, certamente ai pazienti, ai parenti, ma anche alle istituzioni, appunto per sensibilizzare le istituzioni su quelli che sono i necessari cambiamenti da adottare, e anche per i colleghi, perché appunto non è questione di malafede, assolutamente. Il problema è appunto che anche la consapevolezza di quelle che sono le conseguenze del proprio operato non c'è fino a quando non arriva qualche ricerca che le misura. Se io opero, diciamo, due persone che hanno un tumore al pancreas all'anno, come faccio a sapere poi se la mia operazione sia stata soddisfacente oppure no? C'è qualcuno che deve andare a misurarlo e dirmelo, perché io posso non rendermene assolutamente conto, visto che la mia esperienza è saltuaria. In questa direzione, cioè nel creare dei centri di eccellenza dedicati, è andata la creazione delle Breast Unit, sì, che sono questi centri specializzati di senologia di cui parleremo nel corso della trasmissione. Ci raggiungerà il dottor Tinterri. Dottor Balsano, a cuore denari, si aggiorna, si informa e si danno anche dei consigli e delle indicazioni mirate. Una persona che è già destabilizzata per una diagnosi, come deve procedere per non sbagliare? Come può trovare i centri ad alta specializzazione di cui stiamo parlando? È una ricerca che deve fare da solo? Si affida, io credo che sia molto importante, la fiducia, la relazione con il proprio medico curante, il medico di famiglia. Che cosa si fa? Perché anche i messaggi arrivano, ma è meglio farsi operare subito anche in un centro minore, aspettare un mese per andare in un centro più specializzato? Quando arriva la diagnosi, è fisiologico, si cerca subito di intervenire per eliminare il problema, con tutte le paure, le perplessità, i dubbi, no? Che la situazione inevitabilmente comporta. Dottore. Certamente, Nicoletta, lei ha messo veramente l'accento su cose molto importanti, le domande che fa sono davvero molto importanti per i pazienti e per poter dare delle risposte. Allora, primo problema, abbiamo un tumore del pancreas, è più importante curarlo immediatamente o aspettare magari un mese o due e avere un trattamento diverso? Cioè, il tumore del pancreas nel momento in cui si manifesta, diciamo che tipicamente un paziente può diventare giallo oppure può avere dei dolori. In questo caso cosa si fa? Si va all'ospedale più vicino a casa per fare una diagnosi. Nel momento in cui poi la diagnosi viene fatta, il problema successivo è che cosa fare. Allora in questo caso è molto più importante, diciamo, avere un parere approfondito da un centro in cui c'è esperienza. Magari l'ospedale più vicino a casa è assolutamente adeguato, non voglio dire che uno deve per forza cambiare, però appunto sapere, deve informarsi su quella che è l'esperienza dell'ospedale nell'approccio, nel numero di cure, nel numero di interventi. Questi che dati sono eseguiti. Disponibili? Sì. Purtroppo è questo, no, infatti non c'è una lista in cui questo viene pubblicato. Quando un paziente, quando noi, un nostro familiare ha un problema di salute, cosa succede? Che uno normalmente la prima cosa che fa è andare su internet e cercare informazioni. Ecco, ci dovrebbe essere qualche sito, su internet uno può trovare un po' di tutto, appunto ci sono molti dottori, molti ospedali che a volte fanno un po' di marketing, proprio di autopromozione, e allora è difficile orientarsi. Ci vorrebbe un sito istituzionale, qualcuno che pubblica quello che sono appunto queste liste di trasparenza, di quello che è l'esperienza, di quello che è la numerosità del tipo di intervento, i risultati. E questo deve essere appunto qualche cosa che non riguarda solamente il pancreas, ma ogni tipo di malattia. E al momento queste liste non ci sono, è uno dei programmi che noi abbiamo all'interno di alcune società scientifiche, si sta lavorando appunto proprio per definire quelli che sono i criteri per poter rendere migliore questo tipo di offerta sanitaria, ma per il momento se uno va su internet non trova le informazioni adeguate. Anche un sito indipendente come quello di Sportello Cancro del Corriere della Sera, che offre un servizio meritorio, però per quello che riguarda il tumore del pancreas è purtroppo carente, perché mette nello stesso contenitore tumori diversi come quelli del pancreas, del fegato e delle vie biliari, e quindi le informazioni che, se uno cerca specificamente le informazioni sulla cura dei tumori del pancreas, non sono del tutto corrette, perché appunto un centro potrebbe essere particolarmente esperto in tumori del fegato ma occuparsi raramente di tumori del pancreas, e mettendo questi tumori nello stesso contenitore purtroppo anche Sportello Cancro non dà in questo caso delle informazioni corrette. Quindi affidarsi al proprio medico curante e se per caso si è ricoverati in un reparto, chiedere direttamente, non avere paura, non avere un timore reverenziale, chiedere direttamente al primario, al chirurgo, qual è il tipo di esperienza che il chirurgo, che l'ospedale offre nella cura di queste malattie. Ovviamente bisogna poi fidarsi della risposta del chirurgo, ma diamo per scontato che questa risposta sia affidabile. E noi, a proposito di risposte, avevamo anche invitato la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, che insieme al CERGAS ha eseguito la ricerca, ma non hanno potuto intervenire. Questo per informazione. Pietro da Reggio Calabria e Paolo da Latina. Buongiorno Pietro, benvenuto. Buongiorno a lei. Pietro. Grazie. Pronto? Sì, Pietro, la sentiamo bene. Okay, grazie tanto a lei per avermi contattato. Complimenti per la trasmissione. Grazie Pietro. Dunque, il mio problema è questo. Io 4 anni fa, a seguito di un'ecografia addominale, è stato riscontrato una ciste a pancreas di 3,46. Da allora io sono in cura presso un centro di Roma, sì, dove ogni 6 mesi faccio la mia TAC col contrasto. Non è mai stata riscontrata alcun aumento di questa ciste, e ancora oggi continuo tutto tranquillo. Ma non si muove. Pietro, perfetto, lasciamola lì. Dottor Balzano, non si muoverà? Bene, è una domanda molto interessante, appunto perché con la diffusione dei mezzi di diagnosi, diciamo l'ecografia, chi non ha mai fatto un'ecografia addominale o una risonanza, un TAC, queste magari meno frequentemente, però è sempre più frequente il riscontro di alterazioni del pancreas che, come dicevamo, preoccupano sempre, ma che qualche volta possono essere veramente una guida e anche il mezzo per cui prevenire eventuali trasformazioni di queste lesioni. Allora, la cisti del signor Pietro è una cisti piuttosto grande, di 3,5 cm, ma sicuramente, se è rimasta lì per tutto questo tempo, ha delle caratteristiche assolutamente di benignità. Non è una lesione che sta evolvendo, e questo è un ulteriore fattore di tranquillità. Quello che succede normalmente, come è successo al signor Pietro, quando vengono trovate queste cisti, diciamo che inizialmente bisogna fare assolutamente una fotografia molto precisa per capire che natura ha questa cisti. La maggior parte delle cisti del pancreas, come diciamo all'inizio, sono cisti tumorali, ma il fatto che siano cisti tumorali non vuol dire che devono essere tolte, perché appunto ci sono alcune di queste cisti che sono assolutamente benigne e non dovranno mai essere tolte. Alcune potrebbero evolvere col passare del tempo, e questo richiede quindi, come sta facendo il signor Pietro, di fare periodicamente dei controlli nel tempo. Adesso appunto poi, a seconda delle caratteristiche, uno può preferire un TAC piuttosto che una risonanza magnetica. Un altro esame che può essere molto utile, soprattutto per fare la fotografia iniziale di queste cisti, può essere l'ecoendoscopia, che è un esame un po' più invasivo, anche se in realtà diciamo si tratta di un'endoscopia su cui un po' più approfondita, perché permette di eseguire un'ecografia interna sul tubo della gastroscopia. È miniaturizzata una sonda ecografica che permette di vedere molto bene il pancreas, e quindi diciamo quello che succede: una persona come il signor Pietro ha una cisti di 3,5 cm, e quello che conviene fare all'inizio è proprio di fotografarla, di cercare di avere più informazioni possibili di questa cisti e poi tenerla sotto controllo col passare del tempo, come sta facendo il signor Pietro. Allora, noi adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade, sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo insieme con Paolo da Latina e parleremo anche di una esperienza positiva organizzata, che sono le Breast Unit per la senologia, e quindi due chirurgie a confronto, due trattamenti a confronto per la chirurgia del tumore del seno. Ci sono delle indicazioni mirate, dei centri che devono avere determinate caratteristiche, e questo ha sicuramente un impatto sulla qualità di vita, sul decorso della malattia e sulla qualità di vita. Ne parleremo tra poco. Pancreas e seno a confronto. Intanto le vostre domande all'800 24 0024, tra poco. Pantera millesimato, l'IRP di Infracomitalia per le aziende vitivinicole, sempre col TH. Vi presenta cuore e denari. Siamo tornati insieme oggi con il nostro esperto, il dottor Balzano. Stiamo parlando di pancreas, un organo sicuramente meno famoso rispetto a cuore e fegato, ma come abbiamo avuto modo di sentire e di capire, altrettanto importante per la nostra salute. Oggi parliamo di fegato perché è stato di recente oggetto di uno studio scientifico che ha fotografato una situazione in chiaroscuro. Infatti, secondo questa indagine, 9 ospedali su 10 non hanno esperienza sufficiente per operare pazienti con un tumore difficile come quello del pancreas. In Italia non sono presenti infatti direttive mirate per la chirurgia pancreatica, che sono invece presenti in altri stati come l'Inghilterra e la Germania, dottor Balzano, ad esempio, giusto? È proprio così, insomma, questo è un problema che è stato evidenziato ormai, è noto da 20 anni, poi poco per volta gli studi sono sempre più evoluti e quindi alcuni stati hanno già preso dei provvedimenti. Attrezzati. Sì. E a proposito di provvedimenti in altri ambiti per la cura di altri tumori, abbiamo degli esempi positivi di organizzazione. L'esempio, entro quest'anno le breast unit certificate, che saranno una ogni 300-400 mila abitanti, dovranno essere una realtà in tutti gli ospedali all'avanguardia appartenenti agli stati membri. E questo secondo un provvedimento emesso dal Parlamento europeo nel 2006. L'obiettivo è molto importante, quello di garantire a tutte le donne affette da tumore del seno di qualsiasi natura e di grado l'accesso alle cure più efficaci che siano rispettose delle linee guida internazionali, ovvero una offerta sanitaria elevata che riduca sprechi e ottimizzi le risorse a favore naturalmente di una migliore qualità di vita e sopravvivenza. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Corrado Tinterri, chirurgo senologo, direttore della Breast Unit di Humanitas. Buongiorno dottor Tinterri. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno. Allora, dottor Tinterri, al centro il paziente, la donna, attorno un pool di professionisti in grado di garantire l'utilizzo appropriato delle terapie migliori o di una migliore qualità della vita. Questa è la missione delle Breast Unit, perché si è capito che sopravvivenza, guarigione e qualità di vita sono legate, no? Sono strettamente correlate, soprattutto alla presa in carico del paziente da parte di professionisti dedicati che operano all'interno di centri multidisciplinari con alti volumi di attività. Ma come deve essere organizzato un centro perché rispetti gli standard necessari per essere certificato come Breast Unit? Beh, basta che si adegui a quelle che sono le linee guida ministeriali del decreto che noi abbiamo approvato col Ministero della Salute e con il DG della programmazione sanitaria, che chiarisce molto bene quali debbono essere i criteri non solo di numerosità ma anche di qualità, perché queste donne possono accedere in questi centri dedicati che si chiameranno centri di senologia, ed è la prima rete oncologica sul territorio italiano, e siamo anche molto contenti perché è la prima rete oncologica in Europa, tant'è che l'abbiamo presentata nel semestre italiano di presidenza europea, il che vuol dire per la prima volta fare una valutazione di qualità dell'operato sia in termini di diagnosi che di trattamento per una patologia. Purtroppo non è un caso che riguardi il tumore della mammella, perché anche quest'anno in Italia purtroppo verranno diagnosticati oltre 50.000 nuovi casi di cancro della mammella, e quindi è obbligatorio garantire a queste donne il più possibile vicino a casa dei centri dedicati in cui la cura è al più alto livello anche dal punto di vista qualitativo. Dottor Tinterri, ricordiamo, e lo facciamo per informazione delle nostre ascoltatrici, che il tumore della mammella colpisce sempre donne con età più giovani. Sì, purtroppo oggi il 40% dei cancri della mammella colpiscono donne sotto i 50 anni e quasi il 25% sotto i 40, ed è un tema veramente che ha stravolto l'epidemiologia del tumore della mammella, e purtroppo i dati nel tempo sono peggiorativi dal punto di vista epidemiologico, per cui è un problema sociale veramente di grande peso e di grande interesse per tutti noi. Dottor Tinterri, esiste un'evidenza scientifica che, un po' come anticipava il dottor Balzano nell'indagine che ha svolto, che trattare questa malattia in centri dedicati incide significativamente sulla sopravvivenza, con una riduzione di mortalità che arriva a percentuali molto significative, addirittura superiori a quelle ottenute con le terapie, corretto? Correttissimo, esistono dei trial clinici che sono stati fatti comparando cancri della mammella trattati in ospedali cosiddetti generalisti rispetto ad ospedali organizzati, che vuol dire avere un team multidisciplinare dalla diagnosi fino alla terapia. Ebbene, si è dimostrato che la sopravvivenza è superiore del 20% alla parità di stadio di malattie, quindi nessun farmaco oggi garantisce degli obiettivi così importanti. Dottor Balzano, è quello che c'è da augurarsi anche per la chirurgia pancreatica, in generale per tutti i trattamenti. Adesso noi abbiamo parlato di pancreas, per cui lo specifico, l'indicazione è rivolta al pancreas, ma certo che c'è da augurarselo per qualunque altra, no? Problema di trattamento e di interventi chirurgici per neoplasie. Dottor Balzano. È proprio così, ne approfitto per salutare il dottor Tinterri e per esprimere tutto il mio apprezzamento per l'esperienza che è stata condotta. Lui ha avuto un ruolo attivo proprio anche in questa organizzazione, in questa definizione, nell'attuazione di questo decreto. Quindi è quello a cui tendiamo anche noi nel nostro ambiente della chirurgia pancreatica. Ovviamente è stata data la priorità a livello istituzionale al tumore della mammella perché è molto più frequente, appunto una diffusione che è di 4 volte superiore rispetto a quello che è il tumore del pancreas, quindi è assolutamente corretto il modo di procedere delle istituzioni. Adesso però appunto poco per volta arriveremo anche sulle malattie meno frequenti, soprattutto quelle come quella del pancreas, in cui c'è una grossa differenza in termini di risultati, come abbiamo visto esiste anche per il tumore della mammella, e a maggior ragione lo sarà per il tumore del pancreas, che è una malattia un po' più addirittura più complicata da trattare. Per cui questo è il nostro obiettivo e il modello a cui tendere è proprio quello delle breast unit, dei centri di senologia. Dottor Tinterri, io la saluto, so che lei è in viaggio, l'aspettiamo qua per una puntata proprio dedicata per raccontare alle amiche all'ascolto le caratteristiche delle breast unit, che cosa c'è da aspettarsi e che cosa fare quando si riceve una diagnosi, ma soprattutto quali sono le attenzioni e le precauzioni da adottare. Grazie dottor Tinterri, grazie, buon a voi. Lavoro. Saluto anche il dottor Balzani, grazie, ciao, buongiorno. Ciao. Allora, Paolo, buongiorno da Latina, torniamo al pancreas, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci volevo qua. Volevo chiedere una cosa al professore. Io circa una decina di anni fa, casualmente con un'analisi del sangue, ho scoperto di avere l'amilasi e la lipasi, tendenzialmente più l'amilasi, sempre alta, sopra i valori normali, tipo 180, 320. Sì, sì, sì. E da ormai da 10 anni a questa ad oggi, insomma, io... La tiene sotto controllo. Faccio regolarmente una volta all'anno almeno un eco addome completo, comunque dall'eco pure dall'ecografia risulta un pancreas normale, la norma, senza problemi, però io ho sempre questa amilasi tendenzialmente Un po' nelle orecchie. Che cos'è la amilasi, cosa serve, che cosa aiuta? Posso andare incontro a qualche cosa di grave? Allora, prima di tutto, che cos'è l'amilasi, le lipasi e queste cose? Sono degli enzimi che il pancreas produce normalmente, che sono normalmente registrate nel circolo sanguigno. In alcuni casi, appunto, possono essere più alte. Quando sono più alte, c'è sempre una grossa agitazione anche da parte dei medici, perché non si sa che se l'amilasi è alta potrebbe esserci una pancreatite. In realtà, fortunatamente, non è così. E io posso tranquillizzarla assolutamente, signor Paolo. Se lei da 10 anni ha trovato questo problema e il suo pancreas è sempre normale, lei non deve più fare il dosaggio delle amilasi e delle lipasi, non deve sostanzialmente fare più esami se non quelli che saranno i controlli normali, perché lei ha una condizione particolare che non è legata a una malattia del pancreas, una cosa che noi conosciamo molto bene, che chiamiamo iperenzimemia pancreatica, che non è una malattia, per cui sia del tutto tranquillo che il suo non è una malattia. Dottor Balzano, la ringrazio per essere stato con noi, per la chiarezza. Ringrazio naturalmente gli ascoltatori che ci hanno seguito, Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Banossi e Marco Lombardo in redazione. Il nostro indirizzo di posta lo conoscete, per qualunque domanda, richiesta, cuoredenari@radio24.it. Noi ci sentiamo come sempre domani alle 10:30. Buona giornata da Nicoletta.